8. Il repubblicanesimo. Questa repubblica è nata come un maialino. Ha richiesto l'appoggio di due stati potenti come la Francia e la Spagna per ottenere la sua indipendenza, ma verrà il momento in cui sarà un gigante, un colosso formidabile persino per quei paesi. La libertà di coscienza, la possibilità di stabilire una popolazione numerosa su un territorio immenso, attirerà agricoltori e meccanici di tutte le nazioni perché gli uomini sono sempre alla ricerca del profitto. Tra pochi anni vedremo l'esistenza tirannica di questo colosso di cui parlo. Questi timori sono fondati, dovranno realizzarsi in pochi anni se non si verificherà prima una rivoluzione ancora più fatale nelle nostre Americhe. Il conte Aranda, dicendo questo, cercava irrimediabilmente di far capire al vecchio mondo il suo pericolo. Era l'illustre statista europeo dell'epoca, come Carlo II aveva la sfortuna di essere spagnolo. Il suo paese era ancora il giocattolo dell'Europa perché gli spagnoli erano ancora abbietti e sottomessi e non avevano energia. Ma il conte Aranda era veramente intelligente. Vedeva al di sotto delle superfici i principi della natura umana e dell'azione umana. Così parlò invano agli uomini pratici. Parlò un secolo e mezzo fa, 13 anni dopo la dichiarazione che tutti gli uomini sono liberi. Gli europei non capirono questa dichiarazione. Sentivano parlare di repubblicanesimo lontano, nelle colonie ribelli dell'Inghilterra, come gli americani nel 1917 sentivano parlare di bolscevismo in Russia. E si chiedevano l'un l'altro: cosa sono i repubblicani? Cos'è il repubblicanesimo? Cosa significa? Quando sentirono che la plebaglia americana aveva vissuto per circa 2 anni e più in alcuni stati senza alcun governo e che ora stava cercando di sostituire una costituzione con un re, non poterono prendere sul serio lo spettacolo. Gli intellettuali europei si entusiasmarono, credendo che la favolosa età della ragione fosse improvvisamente apparsa in America, ma non gli uomini pratici. Secondo tutti i rapporti, le condizioni in America stavano rapidamente andando di male in peggio. Naturalmente, poiché il repubblicanesimo era anarchia, non c'era ordine sociale né autorità. Le classi inferiori erano completamente fuori controllo. Il disordine aumentava di giorno in giorno. All'ultimo rapporto le cose erano nel caos più totale. Le colonie ribelli si stavano senza dubbio combattendo a vicenda. La prossima nave porterà la notizia che l'intero Folle Piano è crollato. Gli americani saranno lieti di accogliere l'Inghilterra e la Spagna quando si muoveranno per ristabilire l'ordine. Gli europei usarono la nuova parola repubblicano per indicare un fanatico ridicolo e detestabile, un bolscevico. Chiunque, come il conte Aranda, prendesse sul serio il repubblicanesimo doveva essere per metà solidale con quei folli furfanti. Guardate la situazione attuale. È vero che i ribelli sono fuori dal controllo britannico, ma sono stati i francesi a farlo come misura di guerra per indebolire l'Inghilterra. Le finanze francesi sono in uno stato così deplorevole che la Francia non può permettersi di riprendere la guerra e di prendere le colonie. Quindi l'Inghilterra le riprenderà. L'Inghilterra detiene l'Atlantico, il Canada, il Nord-Ovest. Le truppe britanniche sono in Ohio. I loro fedeli indiani uccidono qualsiasi americano che si avventuri a nord del fiume Ohio. La Spagna possiede le Floridas, dall'Atlantico al Mississippi, il grande fiume e tutto il continente a ovest. Guardate la mappa. Questi repubblicani sono chiusi in casa. Chiusi dentro, circondati, non hanno sbocchi commerciali, non hanno denaro, non hanno risorse, non hanno alleati se non la dubbia Francia e sono irrimediabilmente indebitati con la Francia. Non possono pagare il debito francese, non possono nemmeno pagare il loro esercito di straccioni e le truppe non pagate sono in rivolta. Questa repubblica di maiali sopravvive? Non siate fantasiosi, sta crollando. La questione immediata, come nessuno meglio del conte Aranda sapeva, era se l'Inghilterra o la Spagna avrebbero preso la Virginia occidentale, il Kentucky. Una marmaglia di americani non governati stava combattendo contro gli indiani in quel cuneo di terra tra l'Inghilterra e la Spagna. Non potevano vivere senza uno sbocco commerciale sul mare. La Spagna chiuse loro il Mississippi e il maggiore generale Wilkinson, al comando dell'esercito degli Stati Uniti, scese a New Orleans e vendette il Kentucky alla Spagna. Il governo spagnolo lo pagò generosamente in anticipo. Gli inglesi consideravano ancora le navi americane come proprietà britannica. I capitani navali britannici, avendo bisogno di marinai, li requisirono dalle navi americane e risero delle proteste per il fatto che questi uomini non erano sudditi britannici, ma cittadini americani. Sciocchezze. Pochi ribelli non cambiano i fatti firmando un pezzo di carta. Cittadino, appunto, questi uomini sono veri e propri sudditi britannici che cercano di agire al di sopra delle loro possibilità. Una dose di gatto a nove code insegnerà loro qualcosa di meglio. Questa repubblica nascente è un piccolo incidente della guerra francese, il tempo vi porrà rimedio. Questa repubblica sarà un colosso, disse il conte Aranda. La libertà di coscienza, gli uomini corrono sempre dietro al profitto. Questi timori sono fondati, si realizzeranno in pochi anni. 13 anni dopo la dichiarazione di indipendenza e di libertà, i carri a buoi e i maiali vaganti, che erano gli spazzini della città, furono sgomberati dalla strada principale di New York per l'insediamento di Sua Eccellenza il generale Washington, primo presidente degli Stati Uniti. 2 mesi dopo, i membri degli Stati Generali in Francia si dichiararono assemblea nazionale e annunciarono la loro intenzione di creare una Costituzione francese. Questo era il repubblicanesimo. La rivoluzione americana stava scoppiando in Europa. Troppi giovani aristocratici francesi avevano combattuto con gli americani per la libertà. Troppi avevano sentito come il soldato dell'Assia catturato disse a Thomas Paine: «L'America è un bel paese libero. Vale la pena che il popolo si batta per essa». Conosco la differenza, conoscendo il mio. Nel mio paese, se il principe dice mangiate la paglia, noi mangiamo la paglia. L'Assia è una regione della Germania. Tutti credevano, come il marchese della Fayette, americano lo chiamavano i francesi, perché una nazione ami la libertà è sufficiente che la conosca. Jefferson aveva consigliato alla Fayette di convocare un'assemblea nazionale. La Fayette si alzò in piedi all'assemblea dei notabili e chiese di convocare un'assemblea nazionale. L'assemblea fu convocata. Quando la corte si mosse tranquillamente per scioglierla e per spazzare via questa assurda idea di Costituzione, il popolo di Parigi prese d'assalto la Bastiglia. «Questa è una rivolta!» disse il re sorpreso. Gli fu risposto: «No, sire. È una rivoluzione». I colori della rivoluzione, il rosso, il bianco e il blu, si sono imposti su tutta la Francia. Sotto la bandiera americana e il tricolore francese, sotto i ritratti di Washington e Franklin, i rivoluzionari discutevano le loro politiche. Innalzarono in Europa lo stendardo della rivoluzione americana. Per drammatizzare l'accettazione della leadership americana, fecero del leader della rivoluzione, il generale George Washington, un cittadino della Repubblica Francese, primo cittadino delle due repubbliche che prefiguravano la futura Repubblica Mondiale. Mandarono a chiamare Thomas Paine, gli diedero la cittadinanza francese. 3 province francesi lo elessero al loro rappresentante. Sedette nei consigli interni della Convenzione Nazionale. In breve tempo i timori del conte Aranda si realizzarono. Il repubblicanesimo era in Europa. Ogni esercito europeo lo attaccò. Questa guerra durò 20 anni. Fu la prima guerra mai combattuta per estinguere un'idea politica. Un esercito di principi penetrerà dove un esercito di soldati non può, scriveva Thomas Paine. Avrà successo dove la gestione diplomatica fallirebbe. Né il Reno, né il Canale, né l'Oceano possono arrestare il suo progresso. Marcerà all'orizzonte del mondo e lo conquisterà. La rivoluzione francese durò 12 anni e si concluse quando la democrazia francese elesse l'imperatore Napoleone. 9. La Repubblica sopravvive. Il disorientato, combattuto e sfortunato popolo francese, tuttavia, forse salvò la rivoluzione, finché la loro energia mantenne lo spettro napoleonico del repubblicanesimo in Europa. I re disperati prestarono poca attenzione alla lontana Repubblica in America. La Russia si rifiutò semplicemente di riconoscere gli Stati Uniti. L'Inghilterra mantenne le truppe sul proprio territorio come baluardo contro la Spagna e trattò ancora i marinai americani come sudditi britannici ribelli. La Francia aveva riconosciuto la Repubblica, ma Napoleone la ignorò nel suo piano di sottrarre il Nord America sia alla Spagna che all'Inghilterra. In effetti, Perché qualcuno avrebbe dovuto prenderla sul serio? In 6 anni di lotte gli americani non erano riusciti a conquistare la propria indipendenza. In 13 anni erano riusciti a malapena a dire di avere un governo e con un margine così ristretto. 3 voti a New York, 9 nel Massachusetts. E che governo che non pretendeva nemmeno di governare? Senza unità, senza denaro, senza un esercito, senza un ordine sociale o un'autorità di governo, circondati da tutti i lati dalle grandi potenze e indifesi come lo era stata la Polonia, per quanto tempo questi ribelli avrebbero mantenuto la loro oscura indipendenza? Sulla base di tutta la storia europea passata, questo era un ragionamento valido. Non si applicava qui, proprio perché il governo americano era debole. L'opportunità di esercitare i diritti umani ha liberato una straordinaria energia umana. Nessuno si aspettava quello che è successo. Nessuno avrebbe potuto pianificarlo. Quando non si impedisce agli individui di agire liberamente, essi creano l'inedito. Gli americani hanno agito in modi che i buoni sudditi non si sarebbero mai sognati. Gli americani sembrano ancora agli europei il popolo più senza legge tra tutti. Mentre il governo precario si guardava bene dall'offendere l'Inghilterra, nelle terre selvagge dell'Ovest il folle Anthony Wayne, eccedendo grossolanamente agli ordini, diede seguito alla sua vittoria sugli indiani britannici, minacciando le truppe inglesi di abbandonare l'Ohio. Quando il maggiore generale Wilkinson, comandante delle forze armate degli Stati Uniti, aveva venduto il Kentucky alla Spagna ed era stato pagato per questo, a Parigi due americani senza autorità, senza nemmeno comunicare con il loro governo, hanno comprato mezzo continente da sotto i piedi della Spagna. Pagarono quindi milioni di dollari che non avevano l'autorità di spendere e comprarono la Louisiana da Napoleone che non aveva il diritto di venderla, ma Napoleone era un imperatore. Avevano l'ordine di acquistare, se possibile, un porto sul Golfo per pacificare gli indisciplinati kentuckiani che minacciavano sia di secedere alla Spagna, sia di combattere la Spagna per ottenere uno sbocco per il loro grasso di orso e le loro pellicce. Già Napoleone si sentiva a volte sconcertato dallo strano modo in cui i suoi piani non funzionavano. La sua invasione dell'Inghilterra, pianificata alla perfezione più volte, in qualche modo non si realizzò mai. Il suo piano per la conquista dell'America del Nord si allontanava ancora e ancora, e quando gli fu chiesto se avrebbe venduto un porto in Louisiana, ebbe un'illuminazione e rispose: no, avrebbe venduto tutta la Louisiana oppure niente. Questa risposta fece vacillare Talleyrand. Rovesciò l'intera politica mondiale di Napoleone. Alla domanda sul perché, Napoleone rispose semplicemente: ho bisogno di soldi. Aggiunse che non potendo ottenere la Louisiana avrebbe reso gli americani abbastanza forti da impedire all'Inghilterra di ottenerla. Forse mi si obietterà che tra 2 o 3 secoli gli americani potrebbero essere troppo potenti per l'Europa, ma la mia lungimiranza non abbraccia questioni così remote. Inoltre possiamo aspettarci rivalità tra i membri dell'Unione. Le confederazioni che vengono chiamate perpetue durano solo fino a quando una delle parti confederate non trova il suo interesse a romperle. Esigeva una risposta immediata, sì o no, e in tempi brevi. Così, senza autorità, agendo sotto la propria responsabilità, Robert Livingston e James Monroe acquistarono la Louisiana. Nessuno ne conosceva i confini. E l'anarchia si riversò dal Kentucky attraverso il Mississippi. 60.000 americani in 10 anni. 100 anni di insediamenti pianificati e incoraggiati avevano fatto solo un decimo di quanto fatto. Quando il capitano Stoddard alzò le stelle e le strisce sopra le teste della folla che piangeva silenziosamente a St. Louis, pose fine alla terra libera a ovest del Mississippi. La terra era stata libera fino a quel momento. I governi francese e spagnolo avevano dato ai coloni non solo terra gratuita, ma anche attrezzi e sementi gratuite e provviste gratuite fino a quando non fosse stato possibile ottenere i raccolti. Il governo americano non ha dato niente a nessuno. Ha venduto la terra al miglior offerente. 5 milioni di acri non mappati sono stati venduti in un giorno di offerte frenetiche a Franklin nel Missouri. E quell'unico giorno di offerte ha fatto salire il prezzo della terra a vista a 50 dollari l'acro. Il governo americano non si curò in alcun modo degli acquirenti, la maggior parte dei quali erano speculatori, e persero la pelle. 10 anni dopo gli americani avevano combattuto e vinto una seconda guerra per il riconoscimento dell'indipendenza della Repubblica. Napoleone era a Sant'Elena e la monarchia di diritto divino era stata trionfalmente restaurata in tutta Europa. Trionfante ma un po' tremante, un po' apprensiva, ascoltando di tanto in tanto, sicuramente non per un piccolo crepitio nelle fondamenta. Ancora 5 anni e in tutti questi stati il selvaggio mercato dei tori delle terre occidentali crollò improvvisamente. Tutte le banche fallirono, tutti i commerci si fermarono, le famiglie della frontiera morivano di fame, gli uomini non potevano comprare polvere e piombo per uccidere la selvaggina. Moses Austin fu spazzato via. Nei 15 anni trascorsi dall'occupazione americana, Moses Austin aveva accumulato la sua terza fortuna dell'ordine di milioni di dollari. Il suo commercio andava da St. Louis alle Indie occidentali, alla costa atlantica e all'Europa. Le sue miniere, le sue fonderie e le sue torri di tiro fornivano munizioni a Napoleone e agli uomini di Andy Jackson che avevano battuto gli inglesi a New Orleans. Moses Austin fondò una banca a St. Louis. Il suo giovane figlio, Steven, tornato dal college nel Connecticut, rappresentò gli interessi degli Austin nella legislatura del territorio. L'incidente di una settimana mise fine a tutto questo. Non rimase nulla, nulla. Moses Austin doveva 300.000 dollari ai creditori del Kentucky per l'unica piccola voce di lavoro degli schiavi in affitto. Il vecchio, quasi sessantenne, non possedeva nemmeno un cavallo. Camminò per 250 miglia fino a Little Rock, in Arkansas, dove il giovane Steven sedeva in una capanna di legno, candidato sconfitto per un seggio nella legislatura dell'Arkansas. Steven aveva un mulo e uno schiavo. Suo padre insistette per dargli una cambiale di 90 dollari e il vecchio e lo schiavo si alternarono per cavalcare il mulo per 750 miglia fino a San Antonio. Lì, Don Moses Austin chiese di nuovo terra gratis in Nuova Spagna. La ottenne e morì di stanchezza per il viaggio, con le sue ultime parole che esortavano Steven a sviluppare la terra libera e a pagare i debiti. I disperati dell'Ovest percorrevano migliaia di miglia attraverso lo stile terra indiana per raggiungere il commercio di Santa Fe che aveva rilanciato l'Ovest. Il giovane Steven trovò centinaia di famiglie desiderose di percorrere 1.000 miglia per un barile di mais, 3 libbre di piombo e la possibilità di lavorare 10 anni per pagarsi una fattoria. Steven Austin, il ragazzo del college, il figlio del milionario, invecchiò nei 20 anni successivi, non si sposò mai, non ebbe mai un tetto, un cavallo e una sella erano i suoi unici beni. Lavorò giorno e notte cercando di far insediare i coloni su quella terra grezza, cercando di mantenere la pace tra loro e il governo messicano. Ogni centesimo che otteneva dai coloni lo usava per pagare i debiti del padre. Pagò l'ultimo e si coricò nella casa di un colono, malato per l'esposizione e la stanchezza. Per diversi giorni si riposò con l'intenzione di alzarsi il giorno dopo, poi un giorno rimase incosciente. All'improvviso si svegliò e si alzò a sedere raggiante. «Avete visto i giornali?» esclamò. «Gli Stati Uniti hanno annesso il Texas!» Non era vero, ma non seppe mai che non lo era. Si accasciò sul materasso di paglia e morì. In vecchiaia Jefferson, pensando al futuro, non poteva essere sicuro che la rivoluzione sarebbe riuscita. L'eterna vigilanza, disse, è il prezzo della libertà. Se ne ricorderanno gli americani in un futuro sconosciuto? Chi può dirlo? Solo l'individuo comune e sconosciuto potrebbe difendere la libertà sulla terra, perché non è con l'uso della forza che gli uomini al governo possono mantenere l'uso dei diritti naturali dell'uomo. Tra circa 2 secoli, pensava, diciamo intorno al 2000. La valle del Mississippi sarebbe stata colonizzata. Poi ci sarebbe stato il pericolo della crescita delle città. Nelle città gli uomini perdono il contatto con la realtà. Se gli americani rimanessero sulla terra, guadagnandosi da vivere con l'energia della terra, se tutti imparassero a leggere in modo che i futuri pensatori e scrittori americani possano educarli costantemente ai principi e al significato della rivoluzione, allora gli americani creerebbero un mondo nuovo. 10. La rivoluzione industriale. Ed eccolo il nuovo mondo. Nessuno si aspettava una cosa del genere, nessuno poteva immaginarlo. 100 anni fa, 50 anni fa, 30 anni fa, nessuno poteva immaginare un mondo come questo. Per 6.000 anni uomini e donne hanno vissuto e sono morti giovani di fame, di sporcizia e di malattie, credendo che l'autorità li controllasse. In 6.000 anni si sono ingegnati per costruire porcilaie e piramidi e palazzi di marmo, per seminare il grano e cucinare la carne, per sellare i cavalli e aggiogare i buoi e incatenare gli schiavi ai mulini e ai remi. Per 150 anni, europei di ogni razza, credo e cultura hanno vissuto qui in America, ribellandosi all'autorità e con la disobbedienza all'autorità hanno migliorato le loro condizioni di vita. Hanno costruito case, seminato, cucinato carne, cavalcato cavalli, guidato buoi e posseduto schiavi. La rivoluzione è iniziata qui, in condizioni di vita a malapena cambiate da quando regnava Nabucodonosor. Poco più di un secolo fa, qui in questo paese, gli uomini portavano gli altri uomini sulle spalle, come i coolies portano ancora gli uomini in Cina. Le donne americane cucinavano ancora su fuochi all'aperto, come facevano da prima dell'inizio della storia e come fanno ancora più di 2/3 delle donne su questa terra. 80 anni fa, nello stato di New York, ogni donna produceva il sapone e le candele per la propria famiglia. Il petrolio è sempre stato su questa terra, gli uomini lo scoprirono quando Babilonia era giovane. I romani lo conoscevano e lo vedevano bruciare. Nessun europeo aveva mai prodotto cherosene. Le donne americane filano ancora il filo e tessono la tela con il fuso e il telaio che sono più antichi dell'Egitto. Più antiche dell'Egitto, la ruota d'acqua e le macine macinavano ancora il grano che i contadini americani tagliavano con il coltello e trebbiavano con il flagello, più antichi della storia. In un secolo, 3 generazioni, l'energia umana ha creato un mondo completamente nuovo, un mondo dinamico in continuo cambiamento, sotto la spinta di un'energia formidabile e incalcolabile. Cosa spiega questo? Cosa spiega l'efficacia di qualsiasi tipo di energia? Nient'altro che l'esistenza di condizioni che permettono a quell'energia di operare naturalmente, sotto il suo stesso controllo naturale. Un motore a benzina funziona efficacemente perché l'uomo ha creato il cilindro, il pistone e la candela che permettono al vapore della benzina di trasformarsi in forza secondo le leggi della sua stessa natura. Quali sono allora le condizioni che permettono all'energia umana di lavorare efficacemente per soddisfare i bisogni e i desideri dell'uomo? Guardate cosa è successo. Dove è apparsa questa formidabile efficacia dell'energia umana su questa terra? Solo in questa Repubblica, in Inghilterra e nella parte occidentale dell'Europa. Solo in questa piccola parte della terra, tra questa minoranza della popolazione terrestre durante questo secolo. Dov'è la massima efficacia dell'energia umana? Qui, in questa Repubblica, dove un settimo della popolazione terrestre crea più ricchezza materiale di tutti gli altri milioni di esseri umani e la distribuisce più equamente di quanto sia mai stata distribuita altrove. Poi più efficacemente tra i popoli del Commonwealth britannico e un po' più efficacemente nell'Europa occidentale. L'energia umana lavora per soddisfare i bisogni e i desideri dell'uomo solo quando e dove e proprio nella misura in cui gli uomini sanno di essere liberi. Funziona efficacemente solo nella misura in cui il governo è debole, in modo da impedire agli individui di agire liberamente, di usare l'energia del corpo e della mente sotto il proprio controllo individuale. Tutta la storia lo dimostra. Lo dimostra ogni dettaglio dell'esperienza comune di oggi, lo dimostra la luce elettrica, lo dimostra l'auto in garage, come ha fatto Edison a creare la luce elettrica, come hanno fatto gli americani a creare i milioni di automobili americane. Hanno usato il libero pensiero, la libera parola, la libera azione e la libera proprietà. L'uso senza ostacoli dei diritti naturali dell'uomo ha creato l'intero mondo moderno. Nient'altro rende possibile agli uomini creare cose nuove, migliorarle e continuare a migliorarle. E cosa ferma questa creazione dinamica del nuovo mondo in costante cambiamento? Proprio la stessa cosa che per 6.000 anni ne ha impedito la creazione, la sottomissione all'autorità, al governo. Il controllo del commercio da parte dei governi lo ha fermato in questo paese nel 1929. La negazione dei diritti umani in Europa e in Asia la ferma ora, qui, in questa Repubblica. Gli americani in questo momento stanno sospendendo l'esercizio della libertà individuale. E cosa sta succedendo ai loro trasporti, ai loro acquisti, alle loro normali costruzioni, alle loro faccende domestiche? Certamente gli americani si sottomettono al controllo del governo volentieri, più che volentieri, perché la tirannia fa la guerra e solo la tirannia può combattere una guerra. E nel nuovo mondo che la libertà ha creato, la tirannia dall'altra parte della terra costringe gli americani a combattere una guerra mondiale per la rivoluzione contro la tirannia che nega i diritti umani. Ma l'energia funziona secondo le sue leggi naturali, altrimenti non funziona. La sottomissione all'autorità è sempre e ovunque volontaria perché gli individui controllano ciò che fanno. La sottomissione è volontaria ora in Giappone e in Germania. Un egiziano obbediva al faraone perché credeva che il faraone fosse Dio. Un nazista obbedisce a Hitler perché crede che l'autorità tedesca possa creare il tipo di mondo che lui desidera o perché crede di dover obbedire. Un americano obbedisce a un ordine dei leader della Repubblica Washington perché sa che nient'altro che la sua obbedienza all'autorità può vincere questa guerra. L'effetto pratico in tutti i casi è lo stesso. L'obbedienza all'autorità blocca l'effettivo funzionamento dell'energia umana per soddisfare i normali bisogni umani. Questa sottomissione all'autorità è sempre stata permanente nel vecchio mondo. Gli americani trasformeranno temporaneamente la loro formidabile energia, l'energia degli uomini liberi, in guerra, come gli spagnoli hanno trasformato la loro energia nella conquista dell'emisfero americano e di tutta l'Europa. Nulla al mondo può opporsi a questa energia americana in guerra. Ma se gli americani credono che l'efficacia dell'energia umana derivi dalla sottomissione all'autorità, beh, vinceranno questa guerra o perderanno il nuovo mondo. Il libero esercizio dei diritti umani naturali crea questo nuovo mondo. Se si interrompe l'esercizio dei diritti umani, se si rinuncia alla responsabilità individuale, alla libertà individuale, se ci si sottomette al controllo degli affari umani ordinari, tutto questo nuovo mondo di abbondanza economica, questa ricchezza senza precedenti di cibo, alloggio, salute, conoscenza, comodità, lussi, piaceri, questo giovane mondo di trasporti rapidi, di comunicazioni rapide, questo complesso dinamico di energie umane produttive che circonda l'intero pianeta non potrà più essere migliorato, non potrà più essere creato, non potrà più esistere. Pensate che questo nuovo mondo non possa scomparire? Questo mondo che vostro nonno non poteva immaginare e che i vostri figli danno per scontato, pensate che i vostri nipoti lo erediteranno sicuramente? Pensate che gli aerei non possano essere bloccati, le fabbriche chiuse, la radio silenziosa e il telefono morto, le auto arrugginite, i treni fermi. Pensate che il buio, il freddo e la fame e la malattia, che non sono mai stati così sconfitti prima e che ora sono sconfitti solo in questa piccola parte della terra, non possano mai più irrompere su tutti gli esseri umani? Non siate così miopi. Le energie degli individui viventi devono costantemente creare queste difese della vita umana e queste estensioni dei poteri umani. Se si rinuncia al libero uso delle energie individuali, queste difese dovranno sparire come sparirono le galee romane. L'intero mondo moderno dovrà scomparire come scomparve il mondo veloce, pulito, sano e lussuoso dei saraceni. Ogni effetto cessa quando la sua causa non opera più. L'intera civiltà moderna, che non ha ancora 50 anni, che non si è ancora affermata in nessuna grande parte della Terra, può cessare di esistere. Deve cessare di esistere se i singoli americani dimenticano il fatto della libertà individuale e abbandonano l'esercizio dell'autocontrollo e della responsabilità individuale che creano questa civiltà. I giovani americani, che non hanno conosciuto altro che questo nuovo mondo, lo danno naturalmente per scontato. Vedono molte cose sbagliate in esso, possono facilmente immaginare un mondo migliore, così come ogni persona onesta. L'eterna speranza dell'umanità risiede nell'eterno desiderio umano di rendere questo mondo migliore di quello che è. Ma quando immaginiamo che esista o possa esistere un controllo che possa essere usato sugli individui per realizzare un mondo migliore secondo qualsiasi piano, si cade nell'antica illusione che ha Hitler. Stanno ascoltando gli americani di mentalità europea che non si sono mai svegliati da questa illusione. Questo nuovo mondo è un esercizio di energia umana individuale libera e autocontrollata, proprio come una pianta è un esercizio dell'energia vitale e naturale di un seme. L'esercizio dei diritti umani crea questo nuovo mondo, questo gioco dinamico di energie produttive intorno all'intero pianeta che deve essere costantemente creato o non può esistere. Solo l'energia umana individuale, che lavora liberamente sotto il suo controllo naturale e individuale, può continuare a creare questo nuovo mondo e a farlo esistere. La rivoluzione industriale è solo la parte materiale della rivoluzione mondiale americana. È la rivoluzione dell'intera vita umana perché è il riconoscimento della vera natura dell'energia umana. Questa rivoluzione ha di fatto cambiato ogni aspetto della vita di ognuno. Nella salute, nell'igiene, nei servizi igienici, nell'alimentazione, nell'abbigliamento, nella conoscenza, nella cultura, nell'arte, ha cambiato tutti i rapporti umani, nelle famiglie, nei quartieri, nella politica, nel lavoro e nel gioco. I cambiamenti materiali sono chiamati rivoluzione industriale. Si tratta di cambiamenti nei metodi di produzione di questa terra, delle cose materiali di cui gli esseri umani hanno bisogno e che desiderano, cioè la ricchezza.